Cavallo. Cavallo, cavio, un cavallo, il cavallo dove che mangiavi, treno, come l'erba. Mangiavi, come mangiavi, regime, mangione, mangione in maglione. Dove passa il treno? Pig maglione, pig, maglione, pig, maglione, pig, maglione, pig. Piri così piccola e fragile, è fragile e infrangevile, frange degli sfrangiati. Aio. Frantumavi frantoi di franti, aio. Senza rimpianti né pianti né impianti né rimpianti di capelli e cuoio capelluto. E cercavi la metà tra la tetra e la cetra, ma c'entrava la beta. Metamorfosi amorfica, come Morfeo morficava e fornicava con formiche, col fornicolando, il formichiere in zattera, in piazza Zavattini in cravatta, era molto malmostoso, ma il mosto sappiamo essere non più che succo d'uva, la mela di Adamo ed Uva, e Adamo ed Eva. Il medio Eva, nel medio Evo, il medio sussiego del sussiego.